Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera, benvenuti a Smart City. Applicare la computer vision, uno dei più fortunati filoni tecnologici nel panorama dell'intelligenza artificiale, alla moda. Ci lavora l'iMage Lab, il centro di ricerca sull'intelligenza artificiale dell'Università di Modena e Reggio Emilia, che da pochi giorni ha stretto un accordo col gruppo Yoox NET-A-PORTER, che è una delle principali piattaforme di e-commerce operanti appunto nel mondo del fashion. Naturalmente l'aspettativa è di migliorare l'esperienza di acquisto. Allora, a guidare questo progetto e a guidare anche l'iMage Lab c'è Rita Cucchiara, che è una delle massime esperte a livello internazionale di computer vision, nonché direttrice del Laboratorio Nazionale di Intelligenza Artificiale. Buonasera Rita Cucchiara. Buonasera a tutti. Le chiedo subito su quali aspetti voi interverrete. Parliamo di un sito dove si acquistano vestiti o accessori che appartengono, diciamo, al luxury cosiddetto. Voi che cosa farete? Beh, noi abbiamo un bel progetto con Yoox che durerà 3 anni per lavorare a livello di ricerca, ma di ricerca applicata e di prodotti, su 2 aspetti fondamentali. Uno, sul migliorare l'esperienza dell'utente nel momento in cui guarda le immagini e i video di accessori, di vestiti e tutto quello che Yoox NET-A-PORTER vende online, attraverso delle ricerche di similarità un po' più efficaci con l'intelligenza artificiale. E il secondo argomento, un pochino più avanzato dal punto di vista della ricerca, ma e che sarà utile nel futuro, che è il virtual try-on, per il provare in modo virtuale i vestiti. E allora proviamo a entrare un po' in questi due capitoli, no? Allora, tutti noi siamo abituati che quando utilizziamo un sito di e-commerce, quando guardiamo un prodotto, ci vengono proposte delle alternative o degli accostamenti. Allora, voi in che modo entrate in questa partita? Beh, io lavoro su immagini ormai da 25 anni e passa, ma anche con Yoox e anche nel mondo della moda abbiamo iniziato a lavorarci almeno 6 o 7 anni fa, quando però si faceva soltanto del miglioramento per suggerimenti sul colore, quindi se date una maglia verde poter cercare degli altri vestiti di un colore simile o che ci stesse bene. Adesso stiamo la ricerca e i risultati della computer vision in tutto il mondo possono fare molto di più e quindi suggerire degli accostamenti, suggerire l'accessorio in base a quello che si è imparato dai click degli utenti precedentemente, e soprattutto lavorando non solo sui dati, sui metadati, quindi borsetta oppure braccialetto. Quelli che vengono i tag che vengono inseriti manualmente. Esatto, non solo i tag manuali, ma proprio sulla similarità visuale, su come è un vestito, com'è una fantasia a fiori rispetto ad un'altra, cosa che i sistemi di intelligenza artificiale apprendono sia dagli esperti che annotano manualmente questi dati, ma sia anche dalle esperienze degli utenti. E i risultati sono piuttosto buoni, tant'è che sono già in produzione. Ecco, veniamo al secondo aspetto, che è quello che tutti vorremmo, no? Comprare online un vestito ci lascia sempre quell'incertezza, ma ci andrà bene, non ci andrà bene? Sì, lo possiamo magari restituire, ma ci piacerebbe poterlo provare virtualmente. Questo è quindi uno dei vostri obiettivi? Sì, è un argomento di cui se ne parla da qualche anno, onestamente, però i sistemi non funzionano ancora così bene da poter diventare un prodotto dappertutto. Però i risultati della ricerca che nascono da Hong Kong, nascono da Facebook, nascono da Zalando e che facciamo anche noi ad Unimore sono estremamente interessanti. Per ora lavoriamo bene sulle magliette, ma stiamo cercando di lavorare anche su tutto il resto dell'abbigliamento. L'idea qual è? Vedo un vestito addosso a una persona, voglio estrarne, voglio avere qualcosa che stia bene a me sul mio corpo nello stesso modo, oppure viceversa, per un'azienda come che vende online come Yoox NET-A-PORTER, poter far provare a delle modelle virtuali migliaia di vestiti senza doverli avere migliaia di modelli a disposizione in ogni ora. E quindi anche dal punto di vista dell'industria 4.0 è un grande miglioramento nell'efficienza del processo produttivo. Quindi si parla di proiettare addosso o all'acquirente, magari un domani, o per intanto alla modella digitalizzata, per così dire, vestiti diversi. Eh certo, io posso prendere una modella che cammina, che si muove, perché non stiamo lavorando solo di immagini ma anche di video, e possiamo provare in questo momento sulla stessa modella 10.000 magliette diverse o vestiti diversi. Ripeto, stiamo provando, i risultati sono molto interessanti e spero che presto possano essere anche online. Ora fanno parte degli argomenti di ricerca, naturalmente. Per concludere, ecco, quindi qual è l'aspettativa? Che l'acquisto online sostituisca l'esperienza in negozio, integri l'esperienza in negozio? Lei cosa ne pensa anche da consumatrice? Sì, allora, come io sono una consumatrice anziana, perché io sono ancora abituata ad andare nei negozi, però compro online tantissimo. Vedo che i miei figli comprano ormai senza problemi tutti i vestiti online, quindi da una parte per migliorare le esperienze online. Dall'altra penso che sempre di più i negozi, non solo per l'effetto della pandemia, ma proprio per un discorso di cambiamento dei gusti dei clienti, facciano vedere i vestiti e poi permettano invece l'acquisto online. Ci sono già delle esperienze. Vado in una showroom invece che in un negozio, in pratica. Vado in una showroom, vedo il vestito, lo provo, però se lo voglio in un altro colore, se lo voglio provare a me, posso andare a casa e ne provo 10.000 varianti. E penso che questo darà non soltanto la possibilità di migliorare gli acquisti, ma anche, per esempio, di migliorare l'efficienza nella resa, che è un problema molto grosso degli acquisti. Il reso online, degli acquisti, sì. Esatto, non la resa, ma la resa del reso, e quindi a diminuire il reso degli acquisti. Penso che tutto il mondo dell'intelligenza artificiale o comunque della digitalizzazione possa migliorare tutta la catena del valore e la catena di produzione nell'ambito del fashion, che per l'Italia è un argomento estremamente importante. Quindi sono ben contenta di unire le tecnologie con anche qualcosa che come donna mi interessa moltissimo. Grazie Rita Cucchiara. Bene, arrivederci a tutti. Cari ascoltatori, ci fermiamo qui, appuntamento a domani. Buona serata a tutti voi.